tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat e altre radio web collegate di Bologna e Genova, siamo a una nuova puntata del notiziario anticlericale e apriamo col prete di Milano che getta la tonaca alle ortiche e fugge con una bella signorina. Certo, Don Emanuele Santoro era parroco a San Simpliciano e nel centro di Milano. A Trecenta, in provincia di Rovigo, mancano sacerdoti, come ammesso dallo stesso vescovo. La nomina di un sacerdote a tempo pieno per 300 non è più priorità immediata per mancanza di personale. E segnaliamo da supplemento il Corriere della Sera la lettura della settimana scorsa, sesso e fede, cattolici senza terza via, la solita ipocrisia clericale. Ci sono tre libri segnalati interessanti e di oggettivamente anticlericali, di Edgardo Lombardi Vallauri, ancora Bigotti, gli italiani e la morale sessuale, e Einaudi. Anna Pattuzzi, Il piacere e la colpa, cattolici e sesso in Italia, molto interessante. Luca Scarlini, Rinascimento Babilonia, una storia erotica dell'arte italiana, anche qui c'è da vederne di tutti i colori. Abbiamo poi sui misfatti clericali, dal messaggero.it, scoperto a Celano L'Aquila il tesoro nascosto che fa tremare il Vaticano. Ben 2 milioni di euro, di cui 1,5 milioni in oro, lingotti e gioielli e 500,000 in contanti, alla faccia della povertà evangelica, erano nella disponibilità di un ex dipendente del Vaticano. Questo ci conferma nella ipotesi che il Vaticano sia nient'altro che una cricca di affaristi che abusano della credulità popolare. Sempre sul supplemento, la lettura del Corriere del 15 novembre 2020 si ricorda il razzismo clericale. Pare che dal 1492 al 1533 la Chiesa sia stata incerta se riconoscere l'umanità degli indios. Solo dopo questa data alla fine si misero d'accordo che erano esseri umani. E sui crimini contro la donna, per vedere, ricordiamo, la prima donna laureata in Italia, bisogna aspettare l'unità e quindi la sconfitta dello Stato della Chiesa. A Roma la Sapienza dopo 7 secoli è donna. Ricordiamo che per secoli le donne non potevano insegnare ma nemmeno iscriversi alle università, sempre per quelle beghe clericali, queste assurdi pregiudizi clericali. E sempre il Corriere ci ricorda il regno clericale borbonico che teneva il popolo nell'ignoranza fanatica, anzi no, la Repubblica, del 14 novembre nel supplemento Cultura. E vediamo che, per esempio, si fa l'esempio di Napoli, che su 500,000 abitanti soltanto 100,000 sapevano leggere. Venivano tenuti nell'ignoranza dai preti e dai borbonici. Facevano apposta, chiaramente, che se la gente sa leggere, poi magari fa dei pensieri eterodossi. Sul supplemento il Corriere della Sera del 15 novembre c'è una bellissima riproduzione a colori di un quadro di Raffaello con Papa Leone X e i suoi due cugini che fece cardinali, la solita cricca di parenti della Chiesa. Abbiamo poi sul Corriere della Sera del 19 novembre si riporta un libro sul fascista Teruzzi che era coinvolta nell'omicidio Matteotti, ed è proprio scritto così. L'aveva minacciato in Parlamento, cioè il fascista aveva minacciato Matteotti, ma beneficiò dell'atteggiamento complice della Chiesa e superò la crisi. E abbiamo poi, sempre sul supplemento, la lettura del Corriere, a tutta pagina si propaganda il libro di Giovanni Fornero, Indisponibilità e disponibilità della vita, una difesa filosofico-giuridica del suicidio assistito e dell'eutanasia volontaria. Abbiamo poi il coinvolgimento dello stupratore Alberto Genovese, reo confesso e drogato, con i leghisti. I leghisti filocrocifissi coinvolti nello scandalo di questo tizio, e che reo confesso di stupro e altri misfatti. Abbiamo poi cronaca vera di questa settimana, che è tutta piena di riferimenti anticlericali. L'orfanella monaca nel bordello di Dio, a pagina 18. Le vicissitudini di una suora dal carattere libertino. Allora, suora che viveva di meretricio e che aveva trovato questa nuova maniera per eccitare i postulanti. Abbiamo poi la denuncia di un misfatto che sarebbe avvenuto lì nell'ospedale del Bambin Gesù di Roma, che era nella disponibilità esclusiva della Santa Sede. Tragedia clericale: la ragazza di 17 anni deceduta per un trapianto di midollo fallito. E qui ci descrive questa terribile, terribile tragedia, che loro, chiaramente i parenti, danno tutta la colpa all'ospedale clericale. Mia figlia è morta tra atroci dolori, terribile infiammazione, eccetera, eccetera. Abbiamo poi, in un'altra rubrica si ricorda il sacerdote Don Giovanni Usai, condannato a 7 anni di carcere per pedofilia. In un'altra pagina si ricorda la signorina che evidentemente non era mai stata insegnato nulla in materia di educazione sessuale e contraccezione, che ha gestito la sua gravidanza fino alla fine e poi ha lanciato il neonato dalla finestra lì a Trapani, no? Abbiamo poi sulle disgrazie clericali, anche qui molto da dire, e sapete che sono l'autore di un libro sui suicidi dei preti, no? Il reverendo Timothy Irten, cappellano dell'USAF, si è suicidato e si è buttato sotto il treno, quindi il cappellano militare suicida vale doppio, notoriamente. Don Brian Volleider, noto pedofilo, in libertà su cauzione negli Stati Uniti, si suicida in Florida, ad Altamonte Springs. E c'è un altro prete suicida in Costa d'Avorio. Sulle disgrazie clericali, una statistica, la sfiducia nel Papa e nella Chiesa dalla Repubblica del 14 novembre. Solo il 38% degli italiani ha fiducia nel Papa. Poi il Corriere fa una macabra rassegna di clericali morti. Il cugino del Papa morto vicino a Torino di Covid. Poi c'è questa devota di Padre Pio, morta a solo 56 anni. Poi questo prete battagliero, nessun miracolo al santuario di Santa Maria in Caldana Mondragone Latina, ma anzi lo stesso rettore è morto di Covid. Farmacista devoto, appassionato della celebrazione della festa di San Paolino, e niente, anche lui ha solo 52 anni, è morto di Covid. Bene, carissimi, arrivederci alla prossima puntata del notiziario anticlericale. Saluti a tutti. Lavoratori, a voi diretto il canto di questa mia canzone che sa di pianto e che ricorda un baldo giovin forte che per amor di voi sfidò la morte. A te Caserio arde nella pupilla delle vendette umane la scintilla, ed alla plebe che lavora e geme donasti ogni tuo affetto, ogni tua speme. Eri nello splendore della vita e non vedesti che notte infinita, la notte dei dolori e della fame che incombe sull'immenso umano carname, e ti levasti in atto di dolore, d'ignoti strazi altero vendicatore, e t'avventasti tu, sì buono e mite, a scuoter l'alme schiave d'Afirite. Tremarono i potenti all'atto fiero, e nuove insidie tesero al pensiero, e il popolo cui l'anima donasti non ti comprese, pur tu non piegasti dei tuoi 20 anni. Una feral mattina gettasti al mondo dalla ghigliottina, al mondo villa tua, grande alma pia, alto gridando viva l'anarchia. Tutti i